sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Tra pochi minuti dagli accademici di Stoccolma il nome o i nomi del Nobel per l'economia 2008. E ora si riparte, il piano europeo piace alle borse che festeggiano con una serie di rialzi, Milano fra le migliori. Non li vogliamo, dopo gli arresti di ultras neonazisti a Sofia, la FIGC annuncia non chiederemo più biglietti per le trasferte dell'Italia. In carcere due sindaci di Rosarno e Gioia Tauro in una maxi operazione contro l'Andrangheta. E in XL ospiteremo tutt'altri due primi cittadini, sono quelli di Belluno e Frosinone, la prima e l'ultima città nella classifica ecosistema urbano pubblicata dal Sole 24 Ore. Dopo il no dell'estradizione della Petrella dalla Francia, quali saranno le mosse dell'Italia? Fra poco l'intervista al sottosegretario alla giustizia Casellati. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco e benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large. Stiamo attendendo, a minuti dovrebbe arrivare il Nobel per l'economia 2008, come avete sentito nei nostri titoli, e di economia parliamo in apertura del nostro giornale. Finalmente con una buona notizia, le borse oggi hanno decisamente il segno più, segno che stanno tirando il fiato, aiutate dai provvedimenti annunciati dai leader europei nel vertice di ieri a Parigi. Allora, per i dettagli la linea Deborah Rossi. Sì, vi do subito qualche cifra, tanto per darvi la misura di quale sia l'entità del brindisi che viene questa mattina così presentato dalle borse europee dopo il maxi piano anticrisi presentato ieri dal vertice dei paesi appunto europei. Parigi più 4,96% in questo momento, Francoforte più 6,43%, Londra... Deborah, ti interrompo un attimo perché abbiamo il Nobel e tra l'altro un nome noto, Paul Krugman, ne parleremo tra pochissimo. Intanto chiudiamo questo aggiornamento di borsa, insomma proseguiamo con questo Londra aggiornamento di borsa. Londra più 4,66%, Milano miglior piazza d'Europa più 7,18% grazie al volo, letteralmente parliamo di volo questa mattina, dei titoli del Banco Popolare più 16%, Popolare di Milano più 11%, Intesa San Paolo più 10%, Enel più 10%, Fiat più 10%, per cui come dicevo ribadisco la borsa brinda a questo piano delle fine settimana. Vi segnalo però un'unica eccezione perché mi sembra interessante citarla: a Londra Royal Bank of Scotland sta perdendo in questo momento il 7%, perdeva un po' di più, ma è la banca che ha lanciato un aumento di capitale da 20 miliardi, parte del quale sarà sottoscritto dal tesoro britannico, per cui iniziano anche a concretizzarsi le iniziative dei governi messe appunto in piedi nelle ultime settimane. Grazie Deborah per questi aggiornamenti. Dunque riepiloghiamo la notizia che abbiamo dato: il vincitore del premio Nobel 2008 per l'economia è Paul Krugman, un nome molto noto non solamente tra gli economisti ma perché è un noto editorialista del New York Times che ha scritto spesso contro l'attuale amministrazione americana, quindi in qualche modo ha anche, se vogliamo, una valenza politica. Torneremo a parlarne più avanti. E allora, in attesa di conoscere le motivazioni hanno dato il Nobel per l'economia a questo economista statunitense, andiamo a sentire nel dettaglio che cosa prevede il piano contro la crisi approvato ieri dal vertice europeo di Parigi. Sarà comunque ogni Stato a dare un via libera e soprattutto a definire gli stanziamenti per questi piani, tant'è vero che oggi pomeriggio alle 15 è previsto un Consiglio dei Ministri straordinario a Roma. Allora sentiamo che cosa prevede il piano. La linea l'ha indicata Londra, euroscettica, a dir poco perplessa sul fondo europeo per salvare le banche e dubbiosa sulla necessità di un'azione comune. Poi Gordon Brown ha guardato meglio nei conti dei propri istituti e ha tirato fuori un piano di intervento diretto da parte dello Stato all'interno delle banche. Uno dopo l'altro tutti in Europa l'hanno seguita e, costretto dall'urgenza, il vecchio continente ha trovato un accordo. Una cassetta degli attrezzi, come l'ha definita Juncker, a cui si potrà ricorrere in base alle singole esigenze. I mezzi saranno nazionali, i principi invece sono europei. Questo vuol dire che bisognerà fare attenzione a non pestarsi i piedi l'un l'altro. Arriva così la garanzia dei governi sulle operazioni di rifinanziamento delle banche, maggiori iniezioni di liquidità da parte della BCE, fornitura di nuovi fondi propri agli istituti di credito da parte dello Stato, per esempio attraverso l'acquisto di azioni, ricapitalizzazione delle banche in difficoltà e flessibilità nell'applicazione delle regole contabili. Tutte queste misure dovranno essere limitate nel tempo e nell'importo, saranno sottoposte al controllo delle autorità finanziarie e potranno essere realizzate fino al dicembre 2009. 2019. Ancora nessuna cifra ufficiale sul costo globale dell'intera manovra. Il problema da risolvere è la crisi di liquidità ed ecco perché gli stati hanno deciso di garantire le operazioni di rifinanziamento, o meglio i prestiti interbancari, che non sono i prestiti dei singoli clienti, ma i prestiti che le banche si fanno fra loro. Il denaro in circolazione è poco, anche perché le banche non si fidano l'una dell'altra e quindi non si prestano soldi. Il denaro è diventato una merce rara e il suo prezzo è aumentato. Ecco perché il tasso variabile applicato ai mutui, più comunemente conosciuto come Euribor, è salito nonostante la BCE abbia ridotto di mezzo punto il costo del denaro. I due valori sono collegati ma non uguali. In tempi normali l'Euribor supera il tasso ufficiale di uno 0,20% circa. In questo momento la differenza supera il punto e mezzo. Oggi però un primo timido risultato è stato raggiunto. L'Euribor è al 5,31% dal 5,38 di venerdì. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca. Un duro colpo all'Andrangheta è stato messo a segno oggi dalla polizia in Calabria con una serie di arresti nell'ambito della cosca Piromalli di Gioia Tauro. Filippo Veltri in diretta da Catanzaro. Chi sono gli arrestati? Buongiorno, gli arrestati sono l'attuale sindaco di Rosarno, che è un grosso centro vicino a Gioia Tauro, si chiama Carlo Martelli, ha 68 anni, e il sindaco e il vice sindaco di Gioia Tauro, in carica fino allo scioglimento nell'aprile scorso del comune di Gioia per infiltrazioni mafiose, si chiamano Giorgio Dal Torrione e Rosario Schiavone. Ecco, di cosa sono accusati in particolar modo i due sindaci, Filippo? I due sindaci e il vice sindaco sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. Questo è il titolo di reato che la polizia e la direzione distrettuale antimafia nell'ambito dell'inchiesta hanno elevato contro di loro. In concreto si sa che cosa avrebbero fatto? Insomma, si capisce che avrebbero aiutato la riabilitazione, per così dire, dell'avvocato Gioacchino Piromalli, che è un esponente della famiglia dei Piromalli, che era stato già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso. Sostanzialmente Piromalli aveva chiesto di poter far fronte ad un giudizio del Tribunale di Palmi che lo aveva condannato per un vecchio processo ad un risarcimento civile di alcuni milioni di euro lavorando per conto degli enti, e questo sarebbe stato accolto, e da qui il primo avviso di garanzia che era stato emesso già a febbraio di quest'anno nei confronti degli amministratori pubblici, e ora l'arresto di questa mattina. Con i tre sindaci, diciamo i tre esponenti politici, sono stati arrestati anche Gioacchino Piromalli di 64 anni e l'omonimo nipote di cui si sta parlando, che questo avvocato si chiama anche egli Girolamo Piromalli e c'ha 40 anni. Grazie Filippo Veltri per questi aggiornamenti dalla Calabria. Tra l'altro questa mattina a Roma è partita la carovana organizzata dalle associazioni antimafia. Sentiamo. Nei prossimi due mesi farà più di 100 tappe in tutte le regioni italiane, con seminari, incontri nelle scuole con magistrati e parenti delle vittime, poi film, spettacoli teatrali, iniziative diverse fra loro che hanno però un obiettivo comune, quello di sensibilizzare cittadini e istituzioni sul tema della lotta alle mafie, ma anche sulla sicurezza sul lavoro e sulla lotta a tutte le forme di razzismo. È la carovana antimafia, l'iniziativa itinerante organizzata dall'ARCI e dalle associazioni Libera e Avviso Pubblico. Nella sua 12ª edizione, partita stamattina da Roma, verranno anche raccolte firme a sostegno di un appello con il quale si chiedono al Parlamento interventi concreti per rendere più efficace la lotta alle mafie. La prima richiesta è quella di procedure più veloci per la restituzione dei beni confiscati, come spiega il presidente di Libera, Don Ciotti. Di questi beni confiscati, oltre 8.500, una metà consegnati, solo una parte utilizzate, ma 1.700 di questi beni sono sotto ipoteca delle banche e quindi non possono essere utilizzati perché i comuni non hanno soldi, l'associazione non hanno soldi. Noi continuiamo a gridare con forza che le banche, che dove tutti a parole vogliono essere nella trasparenza del contrasto alla grande criminalità e alle mafie, facciano una sanatoria, trovino un sistema, perché sennò poi questi beni, perché ipotecati, vanno all'asta e alla fine rischiano di tornare di nuovo in mano agli stessi criminali. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dove vai se Facebook non ce l'hai? Ormai sembra essere diventato un tormentone. Chi non è su Facebook sembra non essere nessuno, Simone. Sì, ormai anche nella nostra redazione anche si sta diffondendo il virus. Insomma, piano piano, insomma, ci stanno arrivando un po' tutti. Tant'è vero che ormai organizzano anche dei raduni, delle feste sui fan di questo Facebook. Insomma, dal virtuale al reale, sentiamo. sarà la crisi, sarà il logorio della vita moderna, insomma il web 2.0, cioè l'evoluzione di internet, è sempre più legato a tutte quelle applicazioni dallo spiccato carattere social. E siccome non di soli pixel siamo fatti, dal virtuale si cerca sempre più di passare alla vita reale. Facebook è il posto adatto. Fondato 4 anni fa da Mark Zuckerberg all'Università di Harvard, si è esteso prima agli altri atenei americani, poi alle università straniere, poi alle scuole superiori, alle grandi aziende, ma da 2 anni ci si può iscrivere chiunque abbia più di 13 anni. E ora il boom è anche italiano. Ogni occasione, si sa, è buona per far festa. In 4.000 sabato sera si sono presentati al primo Facebook Party italiano. L'organizzatore è un ragazzo romano di 27 anni, Giovanni Simone. Guarda, l'idea è nata in maniera abbastanza semplice. I 4 organizzatori in realtà sono 4 amici nella vita reale. Ci siamo incontrati una sera ad un aperitivo, abbiamo detto perché non fare un Facebook Party. Abbiamo creato il gruppo, l'8 agosto è stato creato il gruppo, siamo partiti da 13 iscritti e siamo arrivati in 13 giorni ad avere quasi 20.000 iscritti. E poi sabato sera com'è andata? È andata alla grande, siamo entusiasti, siamo contenti di come è andato il raduno. È stato bello perché comunque è stato un ambiente facebookiano, perché c'erano persone di tutta l'età, persone che venivano da tutti i posti d'Italia, anche dal mondo, perché c'erano tantissimi stranieri che stavano lì a divertirsi nella maniera più tranquilla possibile. Ora i Facebook Party si diffonderanno in tutte le città italiane e non solo. Noi inizialmente era nata solo l'idea di farlo a Roma, Milano e New York, riunire i raduni in modo tale da gemellarci. Poi man mano, vista la popolarità dei gruppi romani e milanesi, tutti gli altri ci hanno chiesto di collaborare con noi e sono mai tutti raduni in tutta Italia. Quando e dove? Ovviamente lo sapremo su Facebook. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13, 16 minuti e 25 secondi, le notizie del GR Extra Large. Il Nobel per l'economia 2008 va all'americano Paul Krugman, premiato per le sue analisi dei modelli di commercio. È stato uno dei maggiori critici delle scelte in economia come in politica estera dell'amministrazione Bush. È una giornata positiva per i listini del vecchio continente, anche grazie al piano elaborato ieri dai leader dei paesi dell'euro, che prevede tra l'altro prestiti interbancari garantiti fino al 2009. Il quadro delle borse in questo momento vede il MIB del salire del 7,23%, l'S&P MIB del 7,16%, positivi anche le altre piazze finanziarie europee con Francoforte che guadagna il 6% e Parigi il 4,37%. In luce le banche, il Banco Popolare guadagna il 15%, la Popolare di Milano il 12,37%, Intesa San Paolo il 10,86%, bene anche Enel 10,5% e Fiat il 9,60%, Unicredit guadagna circa il 4,5%. Operazione della polizia contro la cosca di 'Ndrangheta a Piromalli, una delle più potenti della Calabria. E manette anche l'ex sindaco di Gioia Tauro, comune sciolto per infiltrazioni mafiose nell'aprile scorso, e l'attuale primo cittadino di Rosarno. Sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. Avrebbero favorito il reintegro nell'ordine degli avvocati di Gioacchino Piromalli, nipote del boss omonimo. Da questo momento per le trasferte dell'Italia non chiederemo più biglietti per i nostri tifosi. Lo ha detto il presidente della FIGC Giancarlo Abete dopo gli episodi di violenza avvenuti a Sofia in occasione di Italia-Bulgaria. C'è stato uno scontro fra due tram nel centro di Milano, in viale Bligny. Ci sono 19 feriti, nessuno di loro è grave. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto a causa del malfunzionamento di uno scambio. La più verde è Belluno, mentre l'ultima è Frosinone, responso del rapporto Ecosistema Urbano pubblicato oggi dal Sole 24 Ore. Tra un attimo in XL sentiremo i due sindaci. Scala posti in classifica Milano, Roma perde posizioni. Radio 24, Day. Quella che avete appena sentito è la sigla del Radio Day. Radio 24 sta dedicando un'intera giornata nei GR al punto ora alla ricerca ecosistema urbano, ricerca fatta tutti gli anni, questo è il 15esimo, da Legambiente, dall'Istituto di Ricerche Ambiente Italia, realizzata anche in collaborazione con il Sole 24 Ore. È una ricerca che permette di stilare una classifica fra le città, 103 capoluoghi di provincia italiani, più virtuose dal punto di vista ambientale. E così al primo posto troviamo Belluno, seguita da Siena e da Trento, mentre Milano è in 49esima posizione e Roma in 70esima. Agli ultimi posti abbiamo Catania, Ragusa e ultima, fanalino di coda, al posto 103, Frosinone. Gli indicatori sono di vario tipo, si va da un indicatore che possiamo definire di pressione sull'ambiente delle attività umane, quindi perdite di rete idrica, consumo di acqua potabile e così via, agli indicatori di stato, quindi smog, inquinamento idrico, verde urbano, e poi quelli di risposta che riguardano la qualità delle politiche dell'amministrazione pubblica, quindi depurazione ad esempio o raccolta differenziata. Primo in classifica anche quest'anno il comune di Belluno. Buongiorno Antonio Prade. Buongiorno. Antonio Prade è il sindaco di Belluno che guida una giunta di centrodestra. Allora, come mai Belluno riesce a essere così virtuoso come comune dal punto di vista ambientale? Merito dei cittadini o delle vostre politiche? Merito dei cittadini, merito delle nostre politiche, merito anche del territorio che ha una vocazione naturale al rispetto dell'ambiente. E questa vocazione del territorio in cosa si concretizza, sindaco? Beh, direi soprattutto per quanto riguarda la qualità dell'aria, i cui dati sono, vedono Belluno in una posizione ormai insuperabile e quindi diciamo favorita naturalmente da politiche ambientali legate a una limitazione del traffico, alla predisposizione di rotatorie e ad ulteriori significativi interventi, ma senz'altro la vocazione del territorio sul piano della qualità dell'aria è una cosa ormai naturale e consolidata. Quindi in qualche modo siete aiutati dalla natura in qualche misura? Questo senz'altro sì, anche se l'aiuto della natura non sarebbe da solo sufficiente senza il grande contributo dei cittadini che sono essi stessi naturalmente vocati al rispetto degli strumenti che la pubblica amministrazione ha. Ecco, parliamo allora dei cittadini. Che cosa fate a livello per esempio di raccolta differenziata dei rifiuti? Come si pone Belluno? Noi abbiamo l'indice più significativo nella quantità assoluta, e cioè siamo il luogo dove si producono meno rifiuti, e accompagnato questo dato da una rilevante e significativa percentuale di differenziazione ci pone all'avanguardia nel rispetto dell'ambiente sotto questo profilo. Sindaco, dovesse darci un esempio di un provvedimento particolare o di un fatto particolare, di una storia particolare che rappresenta questa supremazia di Belluno nella classifica ambientale, che cosa ci direbbe? Innanzitutto il controllo serrato al rispetto della temperatura all'interno degli ambienti il più basso possibile del territorio comunale, e poi la grande attenzione nei confronti del contenimento dei rifiuti, in base al quale premiare chi produce meno rifiuti. Grazie allora ad Antonio Prade, sindaco di Belluno, città più virtuosa dal punto di vista ambientale secondo questa classifica. Buona giornata. Grazie anche a voi e ai radioascoltatori. Buongiorno. E ci ha raggiunto nel frattempo anche il sindaco di Frosinone, l'ultima in questa classifica, la maglia nera, Michele Marini, alla guida di una giunta di centrosinistra. Buongiorno. Buongiorno. Allora sindaco, cosa c'è che non va a Frosinone? Siete gli ultimi in classifica. Sì, intanto però c'è da dire che i dati che sto leggendo questa mattina sul Sole 24 Ore comunque si riferiscono in pratica al 2007, giusto? E quindi sono vecchi, tra virgolette, di un anno, perché siamo a ottobre, ma dico questo perché in questo anno, sto leggendo gli indicatori, molti indicatori sono cambiati, per esempio uno, l'ultimo che leggo qui sulla raccolta differenziata, che è il 6,8%, ma i dati nostri di questo anno, nel 2008, stanno al 15%, questo perché il servizio è partito della differenziata a novembre 2007, quindi è conteggiato soltanto un paio di mesi scarsi nell'anno. Quindi 2007. Insomma, lei dice dal punto di vista della raccolta differenziata stiamo facendo qualcosa. Sì, perché siamo al 15%, perché questa è una città che non è raccolta differenziata, e la mia amministrazione, sono sindaco dal 2007, da giugno 2007, e quindi abbiamo subito iniziato a portare avanti questo progetto di differenziata che comprende anche il porta a porta in tutto il centro storico della città, e a distanza di 10 mesi di raccolta differenziata, perché tanti sono i mesi, siamo al 15%, quindi già è un dato vecchio, quel 6,8%, come come abbiamo, stiamo inaugurando in questi giorni, lavori finiti, un ascensore inclinato di 200 metri che collegherà la parte bassa con la parte alta della città, e quindi sarà rivisto tutto il servizio di trasporto pubblico, che vedo in queste classifiche, in questi dati, che è quello, no, maggiormente... Sindaco, va a migliorare, insomma, no? Sindaco, abbiamo esaurito il tempo, la ringraziamo. Ci sembra che sia stato chiarissimo, e speriamo che questo ascensore, insomma, vi consenta di risalire in classifica l'anno prossimo. Grazie Michele Marini, sindaco di Frosinone. Buona giornata. Arrivederci, buona giornata. E c'è una nuova norma sui limiti di età per ottenere posti in vertice alla magistratura ed è già polemica, sentite perché. Tre righe elaborate pochi giorni fa, il 9 ottobre, ed inserite nel decreto legge che dà più soldi ai magistrati destinati alle sedi disagiate. Di fatto la proposta di Luigi Compagna di Forza Italia, docente di dottrine politiche, sopprime quanto disposto dalla riforma Mastella, che recita: chi fu graziato nel 2004 e ottenne la ricostruzione della carriera non può ottenere posti di vertice oltre i 75 anni. Libera dunque ora chi supera questo limite anagrafico. Secondo il quotidiano La Repubblica e molti senatori dell'opposizione, la norma sarebbe stata cucita addosso alla figura di Corrado Carnevale, più noto come giudice ammazza sentenze. L'obiettivo, secondo chi si oppone, sarebbe quello di proiettare Carnevale al posto di primo presidente di Cassazione. La norma ha ricevuto il primo sì del Parlamento, quello di Palazzo Madama, passerà ora alla Camera. Al Senato ci sono stati 111 no, tra questi quelli di due ex magistrati, Cassone e D'Ambrosio. Anche nel Consiglio Superiore della Magistratura si registrano dubbi sulla misura che permetterebbe a Carnevale di assumere un incarico fino ad 83 anni di età. Una controtendenza rispetto ad un ringiovanimento dei vertici della magistratura auspicato più volte anche dal ministro della giustizia Alfano. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. È tornato in libertà, notizia di questa mattina, l'ex presidente d'Abruzzo, Ottaviano Del Turco, ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della magistratura pescarese su presunte tangenti nella sanità. E liberi con lui anche l'ex segretario dell'ufficio di presidenza della giunta regionale, Lamberto Quarta, così come l'ex consigliere regionale Cesarone e l'ex assessore Antonio Boschetti, tutti ai domiciliari dall'agosto scorso. Per tutti vi è l'obbligo di dimora. Fino al 18 gennaio a Palazzo Reale di Milano la mostra di Robert Frank, lo straniero americano, un'ottantina di opere del grande fotografo svizzero e alcuni suoi filmati. 50 anni fa a Parigi veniva pubblicata la prima edizione di The Americans, un libro, come scrive Enrica Viganò presentando il grande fotografo Robert Frank, destinato a sconvolgere la grammatica del linguaggio fotografico e a scardinare la consuetudine del più illusorio luogo comune, l'American Dream. Nonostante il supporto della Guggenheim Foundation e dopo 3 anni di intenso lavoro negli Stati Uniti, Frank non riuscì a trovare nessun editore per pubblicare in quel paese la sua ricerca sulla tribù americana. Il suo vocabolario, spiega sempre la Viganò, era troppo innovativo. Troppo nervose e desolate, troppo ironiche e autentiche le immagini che scattava. Immagini che la mostra di Palazzo Reale a Milano presenta nella prima retrospettiva su Robert Frank mai realizzata in Italia. Amo la luce, diceva Frank, amo la nebbia. Immagini che la mostra di Palazzo Reale a Milano presenta nella prima retrospettiva su Robert Frank mai realizzata in Italia. Enrica Viganò, una delle curatrici di questa mostra. Robert Frank è veramente un punto di riferimento nella storia della fotografia internazionale. Addirittura viene utilizzato il suo libro The Americans come spartiacque per la fotografia contemporanea. Lui ha veramente inventato una nuova grammatica, è uscito da ogni canone. Beh, detto in una parola, il lavoro di Cartier-Bresson era molto più romantico, quello di Robert Frank è più spietato. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. È una giornata positiva per i listini del vecchio continente, anche grazie al piano elaborato ieri dai leader dei paesi dell'euro, che prevede tra l'altro prestiti interbancari garantiti fino al 2009. Come avete appena sentito, gli indici della borsa italiana sono tra i migliori, con rialzi che superano i 7 punti percentuali. Il Nobel per l'economia 2008 va all'americano Paul Krugman, premiato per le sue analisi dei modelli di commercio. È stato uno dei maggiori critici delle scelte in economia e in politica estera dell'amministrazione Bush. Operazione contro contro la cosca di 'Ndrangheta dei piromali, una delle più potenti della Calabria. In manette è finito anche l'ex sindaco di Gioia Tauro, comune sciolto per infiltrazioni mafiose nell'aprile scorso, e l'attuale primo cittadino di Rosarno. Sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. Avrebbero favorito il reintegro nell'ordine degli avvocati di Gioacchino Piromali, nipote del boss omonimo. Da questo momento, per le trasferte dell'Italia, non chiederemo più biglietti per i nostri tifosi. Lo ha detto il presidente della FIGC, Giancarlo Abete, dopo gli episodi di violenza avvenuti a Sofia in occasione di Italia-Bulgaria. È tornato in libertà Ottaviano Del Turco, l'ex presidente della regione Abruzzo, coinvolto in un'inchiesta su presunte tangenti nella sanità all'obbligo di dimora. C'è stato uno scontro questa mattina fra due tram nel centro di Milano, in zona Porta Romana. Ci sono 19 feriti, nessuno in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto a causa del malfunzionamento di uno scambio. La più verde è Belluno, mentre l'ultima è Frosinone. Il responso del rapporto ecosistema urbano, pubblicato oggi dal Sole 24 Ore, scala posti in classifica a Milano, Roma perde posizioni. Consueto spazio, quello delle 13:32-33 minuti, dedicato al nostro approfondimento economico, e per tutta la settimana dedicheremo questo spazio ad altri aspetti della crisi finanziaria. E oggi iniziamo dall'impatto sullo sport americano. Oh my gosh! Touchdown! Watch it again! Touchdown, fuori campo, canestri, gol. Lo sport a stelle e strisce continua a regalare emozioni e spettacolo. Ma la crisi finanziaria sta scuotendo anche le fondamenta dello sport business made in USA. Un segnale su tutti. La General Motors non sarà più il principale inserzionista pubblicitario del Super Bowl, la finale del football americano. In soldoni, quindi, niente $2.700.000 per i 30 secondi del più costoso spot TV durante la finalissima. Altri indizi? La fuga dei cosiddetti title sponsor, quelli che pagano centinaia di milioni di dollari per dare il loro nome agli impianti di gioco, in particolare nel baseball e nell'hockey. E poi la crisi di molti team del campionato NASCAR, l'appuntamento motoristico più seguito d'America. E presto a risentire della crisi potrebbero essere anche gli ingaggi dei big dello sport USA, come spiega Michele Fratianni, docente di economia politica alla Kelley School dell'Università dell'Indiana. Potranno pagare le cifre che oggigiorno si possono pagare. Insomma, l'attività sportiva anch'essa ha una domanda e un'offerta. La domanda naturalmente deriva dal pubblico che vuole andare a vedersi lo sport e può pagare attraverso una varietà di canali, fra cui la televisione. Ora, se ci sarà una recessione, l'effetto sullo sport sarà abbastanza modestino. Se c'è la depressione sarà un effetto più duraturo, ma in relazione ad altri campi, cioè, se vediamo l'industria automobilistica nei confronti dell'industria dello sport, io penso che l'industria dello sport reggerà meglio dell'industria automobilistica da un punto di vista di reddito, mercato e così via. A salvare lo sport americano, allora, più che i numeri, sarà un fondamentale aspetto psicologico. Nei momenti di crisi nera, infatti, chi potrà non rinuncerà a un paio d'ore di svago e d'evasione. Del resto è già accaduto. La depressione degli anni 30, che fu grave, si notava che i grandi atleti del baseball erano famosissimi, insomma, no? La gente andava a vedere lo sport, andava a distrarsi. Here's to Garnett, Garnett inside, backs it in! Intanto le leghe professionistiche corrono ai ripari. La NBA, la Lega del Basket, ha tagliato il 6% dei suoi impiegati, mentre i team pensano a vendere biglietti a condizioni agevolate. Anche perché il mondo dei professionisti, il rivale più pericoloso ce l'ha in casa e si chiama sport universitario, come spiega ancora il professor Fratianni. Da professore riguardo lo sport universitario con due soldi, insomma. Non ho bisogno di andare a vedermi il basket professionista. Il basket universitario è molto eccitante. Non costa molto. Per esempio, noi quando gioca l'Indiana University vengono da 400-500 km di distanza a vedersi la squadra. Abbiamo uno stadio di 17.500, non ci sono tanti posti vuoti, devo dire. Dario Ricci, GR 24, Il Sole 24 Ore. Continuiamo a parlare di sport, ma declinato sicuramente in un'altra versione, Simone. Sì, l'abbiamo declinato con la crisi, con il nostro Dario Ricci, adesso lo decliniamo con la violenza e con il neofascismo. Insomma, le immagini ce le abbiamo tutti sotto gli occhi, sono quelle che arrivano da Sofia, dove sabato sera gli azzurri hanno affrontato la Bulgaria, dove 5 italiani sono stati arrestati. Immagini le abbiamo viste di bandiere bruciate, braccia destre alzate nel saluto romano. Elisabetta Fiorito, da Roma, c'è una prima reazione da parte della FIGC, quale? E infatti la Federazione Italiana Gioco Calcio prende provvedimenti contro i tifosi violenti. Il presidente Giancarlo Abete annuncia che da questo momento per le trasferte dell'Italia all'estero non si chiederanno più biglietti per i nostri tifosi. Tutto ciò, avverte Abete, finché non si avranno certezze e si faranno le dovute verifiche. E questo quindi il provvedimento dopo gli episodi di violenza che avete già ricordato da studio e gli arresti di 3 italiani a Sofia in occasione di Italia-Bulgaria. Rafforzate poi le misure di sicurezza per la prossima partita con il Montenegro a Lecce. Ma niente più biglietti per l'estero, anche se Abete ammette, dobbiamo stare attenti perché a Cipro c'erano persone che avevano trovato altri canali. Amarezza poi è dolore per quanto avvenuto a Sofia, isolare tali persone è un percorso lungo, spiega il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, è iniziato e sta continuando. Lo stadio, prosegue poi Abete, non aveva però nessun sistema di controllo né tornelli per verificare l'ingresso di qualcuno che non aveva niente a che fare con chi aveva acquistato i biglietti. Il Ministero degli Interni spiega invece che i tifosi arrestati non erano segnalati, ma il ministro Roberto Maroni promette che quando torneranno in Italia saranno tutti sottoposti a DASPO. Il divieto di ingresso negli stadi potrebbe essere esteso non solo agli arrestati ma anche a tutti i tifosi identificati. Quindi insomma provvedimenti molto seri qui da Roma, è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta, tra l'altro è intervenuto pochi secondi fa il capitano della nazionale Fabio Cannavaro, dice se questo è l'unico modo per evitare serate come quella di Sofia, fermare la vendita dei biglietti ai tifosi italiani per le trasferte della nazionale all'estero è giusto. La notizia ha suscitato polemiche che vengono riportate oggi un po' su tutti i giornali, cioè la Francia ha deciso di non concedere l'estradizione per l'ex brigatista Marina Petrella, estradizione naturalmente nei confronti del nostro paese. Quali saranno le prossime mosse dell'Italia? Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto ad Elisabetta Alberti Casellati, sottosegretaria alla giustizia. L'Italia adesso dovrà ripensare a questo provvedimento, a questa decisione che lascia francamente perplessi. Il ministro ha la possibilità di, per così dire, trattare con la Francia questo provvedimento, lo deve far lui personalmente. Anche perché mi pare che la decisione costituisca una sorta di strappo, non capiamo perché la Petrella non può essere curata in Italia e perché non può essere curata con caratteristiche di umanità quando il requisito dell'umanità nel trattamento dei detenuti fa parte della nostra storia e della nostra cultura. E perché poi dovrebbe essere un marchio esclusivo della Francia? E quindi il reinserimento per noi sociale dei detenuti, la cura dei malati sono principi addirittura contenuti nella nostra Costituzione proprio perché costituiscono un patrimonio della nostra civiltà giuridica. E quindi è tutta una storia da rivedere. È impugnabile il decreto francese? Giuridicamente adesso il termine impugnabile richiamerebbe termini processuali che evidentemente allo Stato non ci sono. Io credo che oggi si possa fare una riflessione su questo per le vie che sono stabilite dalle convenzioni internazionali, anche per avere dei chiarimenti che a mio parere in questo momento sono necessari. C'è il rischio che questa vicenda diventi un precedente, in qualche modo un ritorno alla dottrina Mitterrand che la Francia sembrava aver messo in soffitta? Ma io mi auguro proprio di no, che sia andata un po' una decisione, come posso dire, su un'onda emotiva più che su un'onda razionale. C'è stato uno scontro fra due tram questa mattina a Milano in via Sabotino, zona Porta Romana. 15 passeggeri sono stati portati in ospedale, fortunatamente le ferite sono lievi. Secondo una prima ricostruzione dell'ATM, lo scontro sarebbe avvenuto a causa del malfunzionamento di uno scambio. Ancora però, secondo un portavoce dell'azienda, non si sa se si tratta di un errore umano o se vi è stato qualche problema di natura prettamente tecnica. È lunedì, ecco l'appuntamento con la pausa pranzo. Sentiamo dove ci porta oggi Davide Paolini. Mezzogiorno di cuoco, oggi vi porta a Malborghetto in provincia di Udine. Ebbene, in questo paese c'è una grossissima tradizione di cucina legata ad una minoranza linguistica che è quella carinziana, a cominciare da un giacimento che si chiama Sasaka. La Sasaka è, diciamo, un qualcosa di recupero, è un salume che viene fatto in particolare dal maiale, appunto il recupero di maiale. Viene servito questo prodotto in vari modi, può essere servito appunto come antipasto con pane nero, ricotta rifermentata e appunto spalmata sopra la Sasaka. L'osteria da Giusi, appunto a Malborghetto, non si mangia solamente questo antipasto, ma si possono mangiare orzo e fagioli interessanti, gnocchi di farina conditi appunto con Sasaka, oppure anche gnocchi di susine con burro fuso, zucchero e cannella. Osteria da Giusi a Malborghetto in provincia di Udine. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. È una giornata positiva per i listini del vecchio continente anche grazie al piano elaborato ieri dai leader dei paesi dell'euro che prevede tra l'altro prestiti interbancari garantiti fino al 2009. In questo momento a Milano l'S&P MIB guadagna il 7,5%, il MIBTEL il 7,72%, positive anche le altre borse europee, Parigi guadagna il 5,5%, Francoforte il 6,7%. Sul listino si distinguono i bancari, il Banco Popolare più 13,77%, la Popolare di Milano più 13,70%, Intesa San Paolo più 11,47%, Enel più 10,77%, bene anche Unicredit più 5%. Il Nobel per l'economia 2008 è andato all'americano Paul Krugman, premiato per le sue analisi dei modelli di commercio. Fra poco, tra l'altro, sentiremo una delle sue dichiarazioni. È stato uno dei maggiori critici delle scelte in economia e nella politica estera dell'amministrazione Bush. Operazione contro la cosca di 'Ndrangheta, piromali, una delle più potenti della Calabria, in manette anche l'ex sindaco di Gioia Tauro, comune sciolto per infiltrazioni mafiose nell'aprile scorso, e l'attuale primo cittadino di Rosarno. Da questo momento per le trasferte dell'Italia non chiederemo più biglietti per i nostri tifosi, lo ha detto il presidente della FIGC Giancarlo Abete dopo gli episodi di violenza avvenuti a Sofia in occasione di Italia-Bulgaria. È tornato in libertà Ottaviano Del Turco, l'ex presidente della regione Abruzzo, coinvolto in un'inchiesta su presunte tangenti nella sanità, all'obbligo di dimora. La più verde è Belluno, mentre l'ultima è Frosinone, il responso del rapporto ecosistema urbano di Legambiente pubblicato oggi dal Sole 24 ore. Scala posti in classifica Milano, Roma perde posizioni. E dunque, come sentivate nei titoli, come vi abbiamo annunciato all'inizio del GR Extra Large, è stato assegnato il premio Nobel per l'economia 2008 all'economista americano Paul Krugman per le sue analisi dei modelli di commercio. Paul Krugman, che era diventato più noto internazionalmente e non solo tra gli economisti per essere un editorialista del New York Times particolarmente critico con l'amministrazione Bush. Quest'anno è intervenuto al Festival dell'Economia di Trento per presentare tra l'altro il suo ultimo libro, La coscienza di un liberal, e ha parlato della crisi delle materie prime, quindi proprio il suo tema, il tema del commercio internazionale. Ebbene, sentiamo che cosa ha detto. Il mercato delle materie prime non è come il mercato immobiliare o azionario. Qualsiasi fluttuazione di prezzo delle materie prime ha delle conseguenze sugli altri mercati. Chiedersi se il rialzo del prezzo del petrolio sia stato interamente un fenomeno che si è originato dai mercati finanziari implicherebbe l'esistenza di un eccesso di domanda o di offerta di greggio. Non è per esempio quello che notiamo per le materie prime agricole, dove il livello delle scorte è molto basso. E a chi dice che molta della colpa del rialzo delle materie prime sia degli speculatori, rispondo che non vedo molti elementi che supportino questa tesi. Fondamentalmente credo che quello che sta accadendo è che viviamo in un mondo dove le risorse sono limitate e che ci sono paesi, come la Cina, in cui sta crescendo il numero di persone che stanno uscendo dalla povertà. Questo è quanto. E quello che succede sui mercati finanziari non ha molta influenza. E questa era dunque la voce di Paul Krugman, Nobel per l'economia 2008. Buongiorno Fabrizio Galimberti. Buongiorno. Editorialista, firma del Sole 24 Ore. Abbiamo detto che Krugman è anche noto per le sue posizioni critiche nei confronti dell'amministrazione Bush. Secondo te dunque è anche un Nobel di stampo politico quello che è stato dato quest'anno? Ma direi di sì, secondo me è un Nobel che ha un forte significato politico oltre che economico, perché Krugman nel grande pubblico è noto per essere un acerrimo nemico dell'amministrazione Bush. Nei suoi articoli che pubblica regolarmente, almeno una volta alla settimana, sul New York Times, spesso questi articoli riguardano anche argomenti politici oltre che economici, ma sia negli uni che negli altri, specialmente naturalmente quelli economici, lui porta un formidabile sapere tecnico, un formidabile rigore formale che sa però mettere a servizio di una divulgazione così piana e così convincente che lo hanno trasformato in uno dei grandi economisti politici nel senso classico della parola di questi tempi. È un relativamente giovane rispetto agli altri vincitori del premio Nobel, e questo premio Nobel io direi che è uno dei più meritati degli ultimi anni, perché va non a un economista della Torre d'Avorio, c'è cioè un economista che conosce bene la Torre d'Avorio, ma che ha saputo anche uscire dalla Torre d'Avorio e parlare non solo ai suoi colleghi ma anche al grande pubblico. Quindi Fabrizio, secondo te è un premio Nobel meritato anche dal punto di vista tecnico, diciamo così, e non solamente, diciamo così, dal punto di vista, se così possiamo dire, di una scelta politica? Ah beh, certamente, dal punto di vista tecnico lui è estremamente ferrato, i suoi articoli sono irti di equazioni e sono al confine, alla frontiera più avanzata della scienza economica, ma spesso coloro che parlano ai loro colleghi con il linguaggio della matematica non sanno poi parlare con il linguaggio della gente comune, e lui è notevole perché dietro a questi suoi interventi, che sono interventi spesso anche polemici, diretti, c'è sia una capacità di linguaggio piano e semplice e sia appunto una capacità di presentare problemi complessi in formule accettabili da tutti. Insomma, un Nobel meritato quello per l'economia a Paul Krugman. Grazie a Fabrizio Galimberti, editorialista del Sole 24 Ore. Abbiamo cambiato decisamente argomento, ci siamo spostati nel mondo arabo, insomma, parliamo di un logo simile a quello di YouTube ma con un nome differente. Alessandra? Si chiama AXATube, scritto A, Q di quadro, S, A e poi Tube naturalmente come YouTube. È l'ultima iniziativa dei palestinesi di Hamas per scambiare video di propaganda attraverso internet. Sulla pagina compaiono filmati dedicati all'addestramento militare, alla propaganda e al martirio, ma ci sono anche, diciamo, delle soap opera locali. E queste sono invece le note che ci introducono alla nostra rassegna stampa araba di Fatih Ali. La fuga dei cristiani da Mosul in primo piano sulla stampa araba di oggi. Il sito web della TV Al-Arabia sottolinea le violenze senza precedenti lanciate negli ultimi giorni dai fondamentalisti islamici nella seconda città irachena e parla di esodo di massa dei cristiani. Lo stesso sito riporta le dure accuse del premier iracheno Al-Maliki alla Gran Bretagna per essersi ritirata troppo presto da Bassora, ritiro che ha permesso alle milizie sciite di imporre la legge islamica. Ma ora, afferma Al-Maliki, non c'è più bisogno delle loro truppe nel nostro paese. In un'intervista su Al-Hayat, il ministro del petrolio del Qatar chiede all'OPEC di applicare misure preventive per fermare i ribassi del prezzo del greggio causato dalla crisi finanziaria mondiale. Proteste e rabbia dei palestinesi per la costruzione di una grande sinagoga ad appena 50 metri dalla moschea di Al-Aqsa di Gerusalemme. Al-Quds Arabi accusa: vogliono ebraizzare la spianata delle moschee. Sentiamo qual è la parola di questa settimana nel nostro Dizio Radio. C'è un termine termine importante che riguarda un reato disciplinato dal codice penale, che si chiama aggiotaggio, che sembra quasi un'espressione napoletana, aggiotaggio, con due G all'inizio e due G alla fine. Ed lo voglio sottoporre a Giuseppe Busia, giurista, studioso di diritto costituzionale ed esperto del Sole 24 Ore, perché ci spieghi che cosa significhi. Giuseppe, tra l'altro, ne abbiamo sentito parlare in questi giorni nell'ambito del processo al crack, sul crack Parmalat, no? Perché i PM hanno chiesto per l'ex patron dell'azienda di Parma, Calisto Tanzi, 13 anni di reclusione appunto per aggiotaggio, oltre che per altri reati. Che cos'è questo aggiotaggio? Sì, appunto, come tu dicevi, è un reato punito dal codice penale con delle pene particolari, che consiste molto in breve in una manipolazione dei titoli dei mercati finanziari, delle borse, finalizzata a cambiarne il prezzo, farne percepire il prezzo, il valore in modo non adeguato. Ci sono due ipotesi essenzialmente. Una è la cosiddetta manipolazione informativa, cioè quando facciamo un esempio, sì, così risulta più chiaro. Quando si pubblicano, si divulgano delle notizie false oppure esagerate, quindi che hanno un fondamento di verità, ma per esempio una perdita di una società viene ingigantita tanto da far pensare che stia per fallire, quindi si influisce o si dà questa informazione che può influire sul valore delle azioni di questa società. Naturalmente pubblicato non sono i giornalisti che in prima persona decidono, è qualcuno che gli passa evidentemente una notizia del genere. Che gli passa la notizia del genere, potrebbero farlo anche i giornalisti, ecco. Però, chiunque la faccia la deve fare perché ci sia il reato, con il fine di turbare il mercato interno, e la notizia deve essere astrattamente idonea per realizzare questo, per cui insomma una notizia tale da effettivamente influire sui valori. Sì. Oppure, al di là della manipolazione informativa, c'è anche la cosiddetta manipolazione operativa, cioè si compiono delle operazioni, anche operazioni di borsa, anche operazioni simulate, che inducono sempre ad avere una percezione falsata. Però ecco, i due elementi perché ci sia un reato sono: da un lato, o l'operazione o la divulgazione di notizie deve essere tale da appunto astrattamente poter provocare questo aumento o diminuzione dei valori, e dall'altra ci vuole il fine soggettivo di turbare il mercato interno, quindi di modificare il valore delle merci o dei titoli che lo rappresentano. Col fine ovviamente, no, di arricchirsi, evidentemente. Col fine di arricchirsi, di fare grandi profitti danneggiando gli altri operatori, e il più delle volte sono i piccoli risparmiatori che, avendo meno informazioni, avendo minori difese, sono le vittime predestinate di questi reati. Quindi un reato grave, abbiamo visto che proporzioni anche possa assumere. Intanto ringrazio sul tema di aggiotaggio Giuseppe Busia, Roberta Giordano, vi dà appuntamento per il Dizio Radio il prossimo lunedì. Il Nobel per l'economia 2008 all'americano Paul Krugman, uno dei maggiori critici delle scelte dell'amministrazione Bush. Il piano europeo piace alle borse, che festeggiano con una serie di rialzi. Milano fra le migliori, guadagna oltre il 7%. Non li vogliamo dopo gli arresti di ultras neonazisti a Sofia. La FIGC annuncia: non chiederemo più biglietti per le trasferte dell'Italia. In carcere due sindaci di Rosarno e Gioia Tauro in una maxi operazione contro l'Andrangheta. Sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. La più verde è Belluno, l'ultima Frosinone. Il responso del rapporto ecosistema urbano di Legambiente è pubblicato dal Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Carmelo Lauricella. Ci risentiamo domani alle 13. GR 24, il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.